Fra i vari significati del nome Resh, quello che più appare importante è Rosh, che significa testa. Si pensi che in aramaico testa si dice Risha e si scrive Resh Yud Shin, come la Resh, con l'aggiunta di una Aleph alla fine, ed è tipico di moltissime parole aramaiche. La Resh ha delle connotazioni negative, per esempio quando ragioniamo solamente con la testa, con il capo, senza coinvolgere altri cervelli che noi abbiamo. E, ecco, vorrei parlare un attimo di questa delocalizzazione del cervello umano, che non è solo nella testa ma è in altre parti del corpo. Abbiamo parlato nei nostri seminari di come troppo spesso è il ventre che diventa la testa, e allora la persona, cioè il ventre, con tutte le sue richieste che vengono dal basso, quelle più istintuali, quelle più animali, e allora quando questo accade la persona è sulla strada della Rashaut, che significa malvagità. Ma c'è, come dicevo prima, come ho anticipato, anche un lato positivo. Nella corrispondenza con i sette centri di coscienza, la Resh occupa il luogo dove si trova il baricentro del corpo fisico, al di sotto dell'ombelico, là dove le donne hanno l'utero. Se dividiamo il corpo in tre parti principali, secondo le indicazioni del libro della formazione, testa, torace, ventre, la Resh è la testa del ventre, il centro di gravità, il luogo decisionale, il cervello del ventre. Si dice, tu spesso ragioni di pancia, d'accordo? Quindi c'è un cervello che è delocalizzato nella zona del ventre. E per ventre intendo tutta quella serie di attività metaboliche e psicofisiche che hanno come scopo il benessere generale del corpo umano e della psiche inferiore, Nefesh Behemit. È vero che, biologicamente parlando, le istruzioni per il funzionamento di tutto ciò vengono diramate dal cervello, quello centrale, quello che è nella capo, Rosh, ma dal punto di vista esoterico il cervello potrebbe demandare questa responsabilità al centro di coscienza della Resh. Una tale decentralizzazione ha dei vantaggi non poco trascurabili. Innanzitutto la Resh ci insegna che qui c'è la testa del corpo fisico, inteso in questo contesto solo come un insieme di attività biologiche naturali. Questo centro di coscienza sa molto meglio della testa vera, quella che sta sulle spalle, di cosa il corpo abbia bisogno e di cosa non ha bisogno. Non a caso gli animali, la cui testa è qui, in basso, molto raramente esagerano nel mangiare o nel sesso o in altre attività fisiche. Sanno esattamente quali sono i loro ritmi biologici, quando dormire, quando mangiare, quanta fatica fare o non fare, ma dimostrano un saggio istinto di misura e di controllo. Il cane, quando sta male, non mangia, lo sa che non deve fare certe cose. Non è così per noi umani. Per noi le decisioni vengono prese tutte dal cervello, quello centrale, sia che si tratti di soddisfare bisogni unicamente fisiologici, come l'accoppiamento, il mangiare, il dormire, sia che si tratti di bisogni più emotivi o intellettuali, idealistici o spirituali. Si tratta di una grande tirannia che il cervello centrale esercita su tutto l'essere, e che ha come conseguenza un profondo disequilibrio nel quale il sovraccarico di lavoro del cervello porta spesso a decisioni sbagliate. I vari stimoli e bisogni e i valori si sovrappongono e si confondono. Ad esempio, spesso il desiderio di cibo è solo un camuffamento da una frustrazione emotiva o altro. In altri casi il cervello tende a focalizzare tutta l'energia della personalità su traguardi di successo sociale o professionale o anche idealistico. Da parte sua l'inconscio si vendica di tale malgoverno con intensificare il richiamo verso determinate attività che danno una mera soddisfazione sensoriale, e lo fa in modo subdolo e occulto. Il risultato è quello di una gran confusione generale o di una latente schizofrenia. Ciò si paga con una diminuzione della salute fisica o un senso generale di insoddisfazione, spesso nascosto nei divertimenti vacui e mondani o dietro un atteggiamento spavaldo e orgoglioso, sprezzante e spesso altezzoso. Per evitare tutto questo è necessario ridistribuire compiti e responsabilità. Quando la testa del corpo fisico e dei suoi bisogni contingenti viene riportata al centro che la compete, che è quello governato dalla RESH, si costruisce così un cervello addominale che si incarica di governare le attività biologiche. Il respiro e la decisione ritornano normale, i blocchi imposti dal mentale sul fisico si allentano e si sciolgono. La persona è più consapevole di ciò che fa bene nel mangiare e di ciò che non fa bene. Fa maggiore attenzione a non lasciarsi andare alla golosità, utilizza con maggior rendimento i ritmi dell'attività e del riposo, evitando iperattivismo da un lato e pigrizia dall'altro. Il risultato ultimo di tutto ciò è un notevole miglioramento della salute. Un altro vantaggio non indifferente è che la testa si sveglia, liberata dal bisogno di occuparsi di funzioni che non le competono, e diventa più efficace nello svolgimento dei propri compiti, che sono poi i compiti superiori alla quale il cervello centrale, quello in testa, dovrebbe dedicarsi.